vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli. Noi Divino Telma sottoponiamo l'esame astrale, il campionato, elargendo una risposta al quesito: chi sarà campione d'inverno? Figli diretti, campione d'inverno sarà l'Inter. Bisogna rifare? Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Va Berardi col sinistro, palla in rete, vantaggio del Sassuolo al 95esimo minuto, l'Inter va sotto. Adesso che diciamo ai puristi che snobbavano l'1-0? No, che era sempre meglio l'1-0 soffrendo. E non do con rapiezza, non do struia, sulla guarda, sulla guarda. Quel numero 9 lì, 04, Higuaín ne fa due. No passa in c'è, no passa in c'è. Prova il giro! Un gol spettacolare di Manolo Gabbiadini. Gli basta poco, la sua firma però è sempre d'autore. Tagliavento, che ha già messo il fischietto in bocca. È finita al Matosa, ha vinto, anzi ha stravinto il Napoli. 5-1 con 41 punti. La squadra di Sarri è prima al giro di boa. Il campione d'inverno è qui e si chiama Napoli. 800 24 00 24, prenotatevi centralino oppure 349 238 6666 per i vostri sms e i vostri whatsapp. Noi siamo qui per dire l'avevamo detto. Noi cosa? Dal 20 settembre diciamo che il Napoli è la vera favorita per la vittoria davvero? Dello scudetto davvero, e adesso ci siamo, ci davvero? Siamo dal perché il Napoli settembre? È campione d'inverno, sì, da Napoli-Lazio 5-0. Ah, va bene. Il Napoli è campione d'inverno, questo significa per il 69% dei casi da quando è stato creato il campionato a girone unico che vincerà lo scudetto a maggio. Ma pensate voi, gliela stai tirando. Pensate voi, queste gliela percentuali crescono nell'era dei tre punti, 80,9%, oppure dal 2004-2005 Serie A 20 squadre 100%, non lo so. Mi quindi... vedo una messe di tifosi napoletani, un esercito, una pletora di tifosi napoletani con le mani nei pantaloni. Noi siamo qui, lo diciamo da settembre, da quel giorno di Napoli-Lazio 5-0. Sentiamo cosa ne pensa Pierpaolo Marino, che saluto intanto subito. Direttore, ciao, buon pomeriggio. Direttore. Buonasera, ciao. Cosa si può fare, cosa si può dire di... Io condivido quanto è stato detto e assolutamente... Mi ricordo che avete sempre posto il Napoli in cima alla lista delle favorite, quindi mi sembra anche la congiuntura si diriga verso questa ipotesi, perché prevedere che la Fiorentina potesse perdere in casa con la Lazio e l'Inter col Sassuolo, mentre la vittoria del Napoli a Frosinone era prevedibile, poi servite in antipasto questi risultati come per dare un'altra motivazione in più al Napoli, è stata una giornata che conferma assolutamente quanto voi avevate presagito. Sì. Io quello che vorrei sottolineare, vorrei fare qui un paragone col nostro Napoli del primo scudetto, è che a questo punto Higuaín, con le debite proporzioni, anche se poi sono proporzioni importanti, per come è il leader di questa squadra, il trascinatore, se la carica sulle spalle, mi ricorda come figura, ripeto, non come caratteristiche di giocatore che sono diverse, la funzione che aveva Diego Maradona nel nostro Napoli. Sì. A proposito, direttore Di Guenti, faccio sentire, sta intervenendo a Sky, bordo campo, Higuaín. Quando sei campione amaci. Pure le statistiche sono statistiche importanti, nel senso che negli ultimi 11 campionati chi ha girato... Chi ha vinto il campionato d'inverno, diciamo così, il girone d'andata, poi ha vinto lo scudetto. È comunque un risultato che vi dà forza, sicurezza, convinzione? No, stiamo tranquilli, penso che ci meritiamo questo momento, stiamo lavorando tantissimo e stiamo lavorando bene. Comunque adesso dobbiamo sfruttare, stare calmo, tranquillo, come ho detto manca ancora 5 mesi del campionato e speriamo continuare così. Questo Higuain, il tema interessante, quello che poneva Pierpaolo Marino, cioè se il peso di Higuain in questo Napoli, al di là dei numeri che poi vi leggerò, è paragonabile a quello di Maradona degli anni 80 su quel Giovanni, Napoli. Basta leggere i numeri, no? Ha segnato 18 gol, il tassametro continua a correre, quindi praticamente un gol a partita. Il peso specifico di Higuain in questo Napoli è enorme, ma anche il peso emotivo, direttore, di Higuain in questo Napoli è enorme. Perché intendevo dire proprio si, è preso, si è preso la squadra sulle spalle ed è il vero leader di questa squadra, cioè il go to guy, come dicono gli americani. Sì, intendevo proprio dire questo, al di là del fatto tecnico che è incontestabile, forse incide addirittura più di Diego nei numeri, però quello che intendevo dire è che proprio è quel giocatore che dà la sicurezza alla squadra che ci sono le caratteristiche per vincere. Questo è un fattore che vedo manca ad esempio all'Inter, alla Fiorentina naturalmente, perché Kalinic ora si è un po' diciamo affievolito, e forse potrebbe averlo la Juventus in Dybala, però sembra un giocatore che non ha ancora la struttura, la consistenza di Higuain. Higuain è un po' proprio come Diego, perché poi questi, sapete che io sono un appassionato del calcio argentino, questi giocatori, questi fuoriclasse argentini, quando lo sono, sono anche dei paladini della gente e della squadra che rappresentano, ed infatti anche nelle dichiarazioni si vede il trasporto di questo giocatore nei confronti della propria squadra e della propria piazza. Poi il feeling fra gli argentini e Napoli è particolare. Sì, quindi è un feeling che è storico. Esatto. Esatto. Poi cerchiamo di capire quale può essere il punto debole di questo Napoli. Un suggerimento viene da un amico a casa, 349-238-6666, vi ripeto i contatti, questo è il numero per gli sms e whatsapp, oppure 800-24-0024, perché da adesso noi vogliamo sapere cosa ne pensate anche su chi è la vera favorita per la vittoria finale dello scudetto. Noi il nostro endorsement l'abbiamo fatto ed è il Napoli, abbiamo lanciato il sondaggio su Twitter, centinaia di voti, ed è leggermente favorita la Juve, 52%, non è una brutta idea, Napoli 37%, l'Inter che è crollata al 10% e poi un 1% per la Fiorentina. Un amico però scrive: non è che al Napoli inizieranno a tremare le gambe, io malignamente ricordo che l'unica volta in cui in questo campionato il Napoli è stato primo in classifica da solo, 15ª giornata, poi è arrivata la caduta di Bologna. Marino. Sì, però quella secondo me è proprio la medicina che non farà cadere più il Napoli, perché quel precedente lì è stato un toccasana averlo in quel momento della stagione, perché ha insegnato tante cose evidentemente ai giocatori, all'ambiente, e io credo che non si possano ripetere errori del genere. Piuttosto il pericolo potrebbe essere quello di un girone di ritorno che prevede gli scontri diretti fuori casa, però questo Napoli, per come approccia le partite, per come è convinto di quello che può fare e dei risultati che può ottenere, mi pare che giochi indifferentemente sia fuori, sì, che dentro. Sì, sia in casa che fuori. Prima del traffico, poi chiediamo ancora un minuto di pazienza a Pierpaolo Marino, c'è Gerolin, direttore sportivo del Palermo, su Sky. Ci siamo riusciti Adesso bisogna continuare su questa strada. Noi abbiamo visto un Ballardini che al momento del gol è rimasto in disparte, tutta la squadra invece si è unita in un grande abbraccio. Tra l'altro, tra i migliori in campo è sicuramente Sorrentino, che ha salvato il risultato nel primo tempo, ha fatto delle parate fenomenali. Sorrentino che sembrava nemmeno dovesse giocare dopo quanto è successo ieri. No, ripeto, era un momento particolare, un momento di tensione, ma è normale che in questi momenti ci sia un po' di elettricità, c'è stata, a volte fa anche bene questa tensione, in effetti abbiamo vinto. L'abbraccio è stato tra i giocatori, tra lo staff, però si sa che Ballardini ha sempre questi comportamenti, che è un po' isolato. Sì, Ballardini che è un po' un separato in casa, Palermo, io non so cosa ne pensa Marino, non è necessario andare d'accordo con l'allenatore forse per salvarsi, Palermo che con questa vittoria è quintultimo in classifica, Verona che possiamo dirlo è virtualmente retrocesso, 8 punti nel girone d'andata, Insomma, Ballardini era uno dei tecnici sotto osservazione in questa 19esima giornata. 800 24 00 24, aspettiamo il vostro pronostico su chi è la favorita per lo scudetto finale dopo che il Napoli si è laureato campione d'inverno. C'è Pierpaolo Marino, torniamo subito, c'è il traffico. Il campione d'inverno non serve per niente, serve quando sei campione a maggio. Tutti convocati. Tutti convocati. Qualche messaggio da casa: se stasera la Juventus vince ci saranno 4 squadre in 3 punti in vetta, quindi le statistiche contano relativamente perché c'è grande equilibrio. Beh, questa è un'annotazione che può essere interessante, e può in qualche modo anche cambiare la percezione. C'è Steve da Massa che chiede più coerenza: fino a un mese fa la Juventus era fuori dal discorso scudetto, beh, però poi ha infilato 8 vittorie consecutive e le altre hanno rallentato. E poi c'è l'elogio di Sarri. Io voglio chiedere a Pierpaolo Marino quanto conta Sarri in tutto questo, in tutto quello che stiamo vedendo. Ieri ha detto: per la prima volta noi toscani bestemmiamo spesso, che significa aprire alla possibilità teorica di uno scudetto. Sì, però non è, posso premettere che non è questione di coerenza, è questione di risultati per quanto riguarda la Juventus, perché sì, la Juventus questi risultati poi diamo due numeri anche sulla Juventus, che in queste ultime 8 giornate, vediamo quando avrà completato questa nona, ha recuperato 12 punti sul Milan, 14 sulla Roma, sono 7 numeri, su Fiorentina non e Napoli e 6 sull'Inter. Marino, ha tantissimi meriti Sarri. Io direi, al di là di Sarri allenatore e del suo modo di insegnare calcio, piuttosto innovativo ed anche moderno, io dico che Sarri ha avuto la fondamentale importanza di recuperare giocatori da un punto di vista di motivazioni e tecnico che erano stati assolutamente affievoliti da quella gestione di Benitez un po' sciagurata. Ricordo soprattutto Higuain, che era sul procinto di andare via da Napoli, gli chiede di andare via e invece l'ha trasformato in un alfiere del Napoli. E non dimenticate che Higuain lo va a abbracciare quando segna i gol, sì. non smette mai nelle interviste di andare a fare uno svolazzo sui meriti di Sarri e soprattutto il mio pupillo Hamsik. Pupillo e acquisto di Marino, perché c'è anche un po' di Marino in questo Napoli. Io faccio 3 nomi, non so se ce ne sono altri. Hamsik, Maggio, vabbè, Zuniga è fuori rosa, però fa comunque parte di questo programma. C'è Insigne, ecco. Sono i giocatori del nostro antico Napoli, diciamo. Ad esempio anche Insigne è un altro recuperato, perché con il modulo 4-3-3 lo ha restituito al ruolo di esterno d'attacco, facendolo rientrare sul destro, come lo usava Zeman nell'anno migliore finora, che era stato quello al Pescara con Immobile, no? In quel trio d'attacco con Sansovini, Immobile e Insigne. E quindi Sarri, al di là che ha messo su il Napoli da un punto di vista fisico e di gioco rispetto a Benitez, ha equilibrato la squadra con l'inserimento di Jorginho, come dica, davanti alla difesa, che era una difesa invece che era perforatissima. Ha fatto quello che per 2 anni è stato chiesto a Benitez, quando era evidente che quel Napoli non aveva equilibri e che Benitez si è sempre rifiutato di fare. Perché possiamo sintetizzarla così. Perché era un integralista, Pierpaolo. Era un integralista, era uno che l'ha pagato anche quest'anno, no? Cioè era uno che diceva: prima viene il mio modulo e poi vengono i giocatori che io alleno, ma non è così che si fa. Assolutamente, l'allenatore deve essere un ottimizzatore delle risorse umane, esatto. E quindi deve mettersi al servizio umilmente. Infatti Sarri l'ha fatto dopo le prime 3 giornate che il Napoli non andava, l'ha capito, ha cambiato modulo, ha rinunciato a Valdifiori che aveva fatto acquistare lui, ha sistemato Jorginho davanti alla difesa, ha fatto di necessità virtù e si è messo al servizio dei propri giocatori. Un uomo intelligente, e l'intelligenza è dei bravi, fa così. Invece Benitez si è giocato l'Inter, che l'ha capito subito, in verità, sì. Moratti lo licenziò. E si è giocato anche Real Madrid, credo, in una maniera abbastanza simile. Esatto, peccato che la fiducia che ha avuto De Laurentiis in Benitez per 2 anni, e forse l'avrebbe anche confermato, ha fatto perdere al Napoli 2 anni di crescita, perché il Napoli poteva lottare già dalle stagioni scorse con l'organico che ha per il titolo. Sì, vogliamo dire che il Napoli non poteva arrivare quinto con questa rosa più o meno, no, come certo, ha fatto l'anno scorso. Saluto Pierpaolo Marino, grazie. Ciao, direttore. Grazie a voi, ciao, buonasera. 800-24-00-24, adesso parliamo anche di Roma, di Milan, poi dell'Inter, perché c'è la polemica, c'è la polemica arbitrale di Mancini che ce l'ha con Doveri, non so cosa pensate voi. Vi do un retroscena. Già la designazione di Doveri non era piaciuta all'Inter e in particolare a Mancini, perché Doveri ha dei precedenti particolari con l'Inter, al di là di quelli numerici. Questa era l'ottava partita diretta e l'Inter ne ha vinta solo una. Con Doveri arbitro, c'era l'espulsione di Murillo a Palermo che Mancini aveva contestato, c'erano altri episodi nelle ultime stagioni che insomma facevano ritenere Doveri non un arbitro particolarmente idoneo, gradito all'Inter. Mettiamo anche questa, poi ci sarà tempo di parlarne. In attesa di Sarri ci buttiamo indietro a ieri sera, a quello che è successo in Roma-Milan. No, c'è Sarri su Premium, lo sentiamo allora. Pressione degli altri risultati poteva pagare come ha pagato a volte in questo tipo di trasferte in passato, quindi penso sia un passo in avanti a livello di mentalità, a livello di maturità. Lei una piccola apertura verso la parola scudetto l'ha fatta in conferenza stampa, e dopo questa partita, dopo questo entusiasmo che si è generato all'interno dello spogliatoio e soprattutto sugli spalti dei tanti tifosi del Napoli, si può magari aprire un pochettino di più a questo discorso, si può magari bestemmiare come dice lei? Io non ho fatto nessun tipo di apertura, ho fatto solo una battuta in sala stampa, era meno un po' di ritornello della bestemmia abbinata al campionato, ha fatto una battuta, nulla di più. Quindi stiamo facendo bene fino a questo momento, non abbiamo le certezze che possano avere altre squadre, quindi bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a migliorare, bisogna continuare a fare il meglio possibile senza andare a illudere nessuno, non lo sappiamo neanche noi, lo possiamo fare. Quindi Sarri si rimangia, fa mezzo passo indietro rispetto a quello che aveva detto ieri. Ma sembra normale, no Giovanni? Ma adesso c'è da tenere calmo l'ambiente. Ricordo il precedente, 15ª giornata, Napoli capolista da solo e poi caduta a Bologna. Sì, ma che conta la continuità. Gioco di parole orrendo, ma quello che sorprende è la continuità di questa squadra. Saluto intanto Roberto Renga. Ciao Roberto. Ciao, sì, buonasera a tutti. Perché a proposito degli allenatori, c'è chi ci chiede notizie dell'esonero di Garcia. Siamo rimasti a questo ieri sera. Palla sul secondo palo, al volo! Compressione di guerra, Roma in vantaggio. Honda, il sinistro sul secondo palo. Al secondo tempo, come ho detto, si è spenta la luce e questo non va per una squadra della qualità della Roma. Ho spinto già la luce, sono rimasto solo io. Primo tempo meritavamo di vincere, sul secondo tempo meritavamo di perdere. Peccato perché la squadra ha iniziato benissimo la partita. Nel secondo tempo abbiamo dimenticato il nostro gioco, non c'era più niente buono né sul piano tattico dove siamo andati troppo indietro, né sul piano fisico dove eravamo stanchi e né sul piano tecnico. I risultati condizionano le scelte che riguardano gli allenatori come i giocatori tutti tesserati. Non possiamo limitarci all'analisi di una partita o di un risultato perché sarebbe riduttivo. Ci preoccupa molto di più la fragilità che mostra, ad esempio. E sulla panchina si sente in discussione giornata dopo giornata, le dà fastidio? Ma questa è l'ultima preoccupazione che ho. L'unica preoccupazione che ho è vedere come migliorare con questa squadra. Questo è l'ultimo Garcia di ieri. Roberto Renga chiede Lello da Vicenza se hai notizie dell'esonero di Garcia. No, siamo nella stessa situazione di ieri, solo che nel frattempo si sono registrate altre dichiarazioni forti, molto molto dure, di Pallotta nei confronti di Garcia. Sì, a messaggero.it. Adesso le leggiamo, così sì, anche gli amici da casa, insomma, Ne vengono a conoscenza. La partita di ieri mi ha disgustato, ha detto Pallotta, che evidentemente non ha digerito il secondo tempo della Roma. La condizione atletica è molto buona e questo è un fatto, penso però che alla squadra manchi la mentalità vincente. Ha detto la condizione atletica è molto buona. Avete sentito Sarri ieri sera che diceva nel secondo tempo non avevamo più le gambe. Questa è una battaglia chiara tra Garcia e la società. Come sappiamo, gli hanno tolto la squadra dei preparatori atletici, gli hanno messo quella voluta da Pallotta. Lui insiste su questo tasto. È chiaro che è una battaglia pseudopolitica, no, Roberto? Mi sembra altrettanto evidente, Roby, mi sembra altrettanto evidente che non è possibile vivere in questa situazione, meglio tagliare quel filo piuttosto che lasciarci sopra l'allenatore fino alla fine della stagione, no? Allora, questo filo doveva essere tagliato a giugno, visto sì, che sono d'accordo con te. Di commissariare, no? Con il medico, con due preparatori e il lavoro di Garcia. E i giocatori ovviamente hanno capito che Garcia era di passaggio e ne vedete le conseguenze. Però c'è da dire una cosa, che la Roma è sicuramente la squadra che sta peggio fisicamente in Italia. Nel secondo tempo, l'ultima mezz'ora, la Roma sì e no partecipa. I giocatori della Roma non arrivano secondi, come avete visto ieri, sul pallone, ma arrivano terzi, sì, quarti. Anche a Verona col Chievo. Anche a Verona col Chievo c'era stato un crollo imbarazzante sempre, nel secondo tempo. La Roma è la squadra che subisce più gol nel secondo tempo e nel finale di partita. E i numeri alla lunga non sono un caso, eh? No, anzi, la Roma non sta in piedi. E secondo me questo richiama responsabilità della società, perché comunque ha ragione Garcia, che pure non fa nomi e cognomi, però lo staff di preparatori non è stato scelto da lui, è stato messo lì da Pallotta, e quindi questa non è una colpa che si può ascrivere a Garcia. Se oggi la Roma cammina e non corre nei secondi tempi, l'altra responsabilità, io non so cosa ne pensano gli amici a casa, però secondo me va detto a questo punto, questa Roma è prigioniera di Antonio Conte, del sogno di Antonio Conte, del progetto di Antonio Conte. Io non so se questa Roma si possa permettere di vivere una seconda parte della stagione che sarà una lentissima agonia, probabilmente che porterà la Roma fuori dalle coppe, con tutto quello che significa anche in termini poi di potenzialità economiche da investire. Ma io penso che, secondo me, almeno secondo me, la Roma dovrebbe anche chiedersi, ma Conte, a Conte conviene venire in una squadra che è fuori dalla Champions e che in questo momento fatica anche a entrare in Europa League? Beh, bisognerebbe prima capire se ci sono degli accordi, Roberto, se ci sono già delle... No, non ci sono. Io mi rifiuto di pensare che non ci siano. Mi rifiuto di pensare che... A me parrebbe strano che non ci fossero. Però altrimenti non avrebbero cercato Spalletti ripetutamente. Se ci o è Spalletti che si è proposto, Roberto? Ma Spalletti sì, sarebbe ben felice di tornare. Però so che loro l'hanno sentito e in caso contrario gli avrebbero detto di no. Però mi chiedo, Conte è l'allenatore, per esempio, che accetta Jomber? Dice, ah, guarda, adesso ti ho preso un grande stopper, si chiama Jomber, ti ho preso un grande terzino, si chiama Emerson. Non credo che sia così accomodante. Anche se in questo momento, secondo me, ci vorrebbe un allenatore come Conte o come Capello, uno che arriva e dice adesso fate come dico io. Ma anche per coprire la lontananza della proprietà, mi ricorda, certo, diciamo, quello che è Mancini per l'Inter di Tohir, non a caso altro proprietario che sta a migliaia di chilometri dall'Italia. Ieri Garcia si è giocato anche il parafulmine Totti. Oggi qualcuno, credo Repubblica, ha scritto, l'ha fatto anche a un certo punto per mettere a tacere i fischi che cominciavano. Ma secondo me no, non l'ha fatto per quello. Comunque è stato un errore, perché in un momento così delicato tu metti dentro un giocatore non tanto di 39 anni, ma che non gioca da 3 mesi e mezzo. E si vedeva, cioè dava la sensazione di essere imbalsamato, anche se non è che abbia giocato peggio degli altri, perché ieri non lo so quanti hanno meritato la sufficienza della Roma, forse Rudiger. Non di sicuro, però del carisma di Totti questa squadra ha bisogno, eh. Il carisma di Totti è stato assente anche quando era infortunato, e io mi aspettavo da uno come Totti, Roberto, mi aspettavo da uno come Totti che facesse sentire comunque il suo peso anche da capitano non giocatore, cosa che non è avvenuta. Ma non è avvenuta perché probabilmente la società, che gli ha chiesto soltanto di fare il giocatore e di non fare il capitano non giocatore, gli ha detto stai al posto tuo e lui sta al posto suo. Però io dico, Totti serve quando sta bene in campo. Sì. E lui dopo come, tre mesi come e mezzo, ieri serve, non, serve non come feticcio da mostrare alla poca folla che c'era all'Olimpico. Un amico scrive al 349-238-6666, ci vuole uno come Conte o Capello, adesso Spalletti non serve, per carità. Ripeto, Roma che è prigioniera del progetto o del sogno di portare Conte ad allenarla, magari Capello, allora, non lo so, comunque detto, una figura di quel io genere. Io ho detto molte volte, vedrai benissimo Capello in un ruolo dirigenziale, cioè come figura di riferimento di questa società. Ormai magari non ma più in panchina. Perfetto. Appunto. Ma, Capello allora sarebbe perfetto faceva, per allora si faceva essere... come voleva Capello, Non è che voleva sì. Diceva voglio Battistuta, perfetto. Gli compravano Battistuta. Perfetto. Allora Pallotta nomina Capello il Boniperti della Roma e secondo me la Roma risolve diversi dei suoi problemi, perché così quasi si costruisce una società. Esatto. Ma quasi tutti, non c'è dubbio, però è questo che vuole Galloppa? Che vuole Pallotta? Io non credo che voglia questo. No, ma anche perché costa poi portare avanti una società così. A Garcia compreranno Sharawi, credo, insomma, l'ha detto anche ieri Galliani. Poi forse Perotti, io non credo sia la soluzione dei problemi, né per Garcia né per chi arriverà dopo, perché, ripeto, io non penso si possa arrivare a metà maggio in questa situazione. Ma questo ormai è il destino della Roma, anche se oggi possiamo anche quasi guardare il lato positivo della partita di ieri sera. Milan e Roma hanno guadagnato un punto su due delle prime classifiche, no? Sì, perché poi hanno perso un po' più vicine alla zona Inter. Champions. Però insomma, ecco, ci vuole dell'ottimismo, ovviamente. È caduta la linea di Roberto Renga. No, ci sono. No, ci vuole dell'ottimismo? No, ci vuole dell'ottimismo o dell'incoscienza o della sana incoscienza. Ma io soprattutto sono preoccupato per le parole di Pallotta. Sì. Ma cioè Pallotta come può dire la se condizione la atletica partita, è molto buona e questo è un fatto. E questo mi preoccupa. Ma c'è un amico che scrive Sadiq non ha lo stesso staff di preparatori atletici della prima squadra, vero? Sadiq ha 17 anni, 18 anni e a quell'età lì. Si fa tutto. Non c'è nemmeno bisogno del preparatore. Esatto. Basta. Beati loro. E poi c'è chi scrive: vi ricordo che Conte ha lasciato un progetto vincente alla Juventus perché non gli hanno comprato i due giocatori che lui voleva. E quindi credo, insomma, la situazione sarebbe un osso abbastanza comunque. Duro. E poi comunque all'inizio Conte ha accettato anche qualcosa. È un capello più giovane. Sì. Grazie Roberto, ti devo salutare. Ciao Roby. A voi, buona domenica. Grazie a Roberto Renga. 800 24 00 24. Adesso andiamo in pausa, poi apriamo il capitolo Inter e io voglio sapere dagli amici a casa cosa ne pensano dello sfogo di Mancini sull'arbitraggio di Doveri in coda Inter Sassuolo. E sul piano tecnico so che un giocatore, sono stato, deve essere stare bene sul piano fisico per stare bene tecnicamente, ma ovviamente con la qualità di alcuni dei miei giocatori mi aspetto di più e mi aspetto molto meglio. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Mi faceva piacere oggi vedere, siccome domenica mi ha fatto vedere subito appena sono arrivato, la manata dell'esterno di Berardi, che io tra l'altro ammiro perché penso sia un grandissimo giocatore. C'è questo intervento di Berardi su D'Ambrosio, la manata in faccia c'è. Non mi sento di considerare una condotta violenta, una cosa volontaria per colpire il giocatore di Sassuolo. Comunque andava sanzionato sicuramente il fallo e ammonito il giocatore del Sassuolo. Quindi da giallo Sassuolo. Secondo te? Da giallo, sì, perché non è da rosso. Da rosso secondo, per Semironella. Visto Doveri con noi non ne sbaglia una, è sempre. Allora, secondo me andava ammonito D'Ambrosio forse lì. Vabbè, forse tanto D'Ambrosio per l'ironia, apprezziamo molto l'ironia perché non è così scontata. Io penso che questo sia un fallo da espulsione, ripeto, di un giocatore straordinario secondo me. Sì. È un fallo da espulsione, l'arbitro era lì, il quarto uomo era lì, il guardalinea era lì, quindi 3-6 occhi non ha visto niente, mentre altre volte il signor Doveri è perfetto, contro di noi ne sbaglia una, Palermo, rigore di oggi, sempre perfetto. Allora, questo è Mancini a Premium. Dopo la partita saluto Francesco Toldo. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, ciao. Nella graduatoria da 0 a 10, quando Mancini fa l'ironico dicendo che D'Ambrosio andava ammonito, a che livello è d'arrabbiatura? L'ho visto anch'io abbastanza nervoso e deluso per il risultato, perché brucia perdere in quel modo, però ci stavo pensando prima cosa potevo dirvi, perché giustificare una sconfitta in casa contro il Sassuolo in quel modo lì è ok, si può dare la colpa all'arbitro, si può tirare fuori quello che si vuole, però io credo che l'Inter abbia giocato una buona partita e l'errore dell'Inter è non aver chiuso all'inizio, non aver buttato dentro, non dico vabbè la prima di Icardi, ok, ha recuperato il difensore e ha sbagliato il tiro, ma la seconda di Ajlic, ne ha avute un paio grosse gli Ajlic. Sì, posso dirti Francesco che a me sorprende tantissimo questa sconfitta, perché se c'è un punto forte dell'Inter è quello di non avere incertezze contro le squadre che stanno dietro di lei, contro le medio piccole. Normalmente quando gioca con queste squadre vince l'Inter. Sì, è vero, l'Inter è un cecchino, è stato un cecchino. Esatto, però è vero, questa osservazione è vera, però io la vedo un filino da un altro punto di vista, che questo campionato è aperto. Che sia campione d'inverno, una squadra piuttosto che un'altra, sono tutte lì a 3 o 4 punti, ce ne sono 4 o 5 di squadre. Quindi è tutto relativo. Poi, se uno vuole festeggiare il campionato d'inverno, va bene che lo festeggi, non porta una coppa. L'importante è testa bassa, umiltà, e l'Inter, secondo me, deve capire in questo caso i propri errori. Se ha fatto di un campionato il minimo, quindi 1-0, le ha portate a casa un po' di partite e ha sbagliato questa, non c'è nessun dramma, anche perché io allo stadio ho visto un clima e ho sentito un clima positivo. Sì, abbiamo sbagliato 1000 gol, ok? E abbiamo trovato due portieri oggi fondamentali, perché Handanovic ha fatto delle parate oggi che secondo me l'Inter doveva andare sotto prima di un gol, perché sono le classiche partite che sbagli 2000 e non è neanche gol, la prima volta, Fran. E non è la prima volta. Consigli, cosa ha fatto Consigli? Quindi è stato un bello spettacolo, va bene? Non dobbiamo fossilizzarci troppo sul risultato, perché altrimenti viene fuori una malattia. L'Inter deve sapere che ha certi limiti, come ce li hanno tutte le altre squadre che sono in alto. Quindi tu non vedi un piccolo segnale di cedimento? Giustamente, i numeri dicono questa è la seconda sconfitta consecutiva. Guarda, in casa una trambata in faccia ci sta anche bene. Alla fine cosa fai? Ti rimetti in moto, perché questo è il campionato. Hai anche la fortuna di non avere le coppe, quindi lavori in maniera tradizionale, che hai la settimana lunga, va bene. Quindi hai tutte le carte in regola per arrivare in fondo al campionato e giocartela. Non c'è una squadra che è al di sopra delle altre, perché il campionato italiano è in ripartenza, come una sorta di paragone con l'economia italiana. Stiamo ripartendo pian pianino, ok? Ora di arrivare ai livelli pre-2010 passa di strada un pochino. Però sono sempre lavori in corso, quindi io la vedo come l'Inter ha steccato solo il risultato. Quindi non hai l'impressione che possa anche soffrire un po' di pressione davanti? Beh, allora, la pressione ci devi saper convivere, altrimenti non ti chiami Inter, Juve, Milan. Però questo è un gruppo giovane da questo punto di vista, cioè non è un gruppo abituato. Tutte le squadre di Serie A soffrono la pressione, tutte. Se te vedi in casa, tutte le squadre soffrono un filino di più che in trasferta. In trasferta sei più leggero mentalmente, perché tanto anche se non vinci, un po' la psicologia spiccia del calcio di rigore che l'attaccante deve soffrire, sì, e ha più il da portiere perdere. Invece ha più da perdere. Però in questo caso io non farei assolutamente nessun dramma, anzi respingerei al mittente tutte le polemiche, e l'Inter deve fare un'autoanalisi e capire il perché oggi non si è... Sì, tutto corretto, però si tratta di cominciare a lavorare sotto una pressione diversa, Francesco? Ma ci sta, va bene. Sì, va bene. È un momento di passaggio per arrivare allo scudetto, sicuro. Sì, ma hai ragione. Guarda che ci si è abituati alla pressione, anche se il gruppo è giovane. Io quando attacchi la spina, la attacchi a agosto e la stacchi a giugno. Questo è il portiere. Dovrebbero farli tutti. Dovrebbe, questa analisi sicuramente la farà Mancini e il suo staff, perché non gli scappa una virgola, è il loro lavoro. E se l'ambiente supporta, parlo di ambiente, parlo società e tifosi, supporta in maniera positiva, l'Inter da questa sconfitta riparte e farà paura anche alle altre squadre. Intanto era parlato dall'Indonesia, ha detto rilassiamoci, manca ancora tutto un girone, non dimentichiamoci che l'obiettivo è centrare la qualificazione alla Champions, quindi un modo anche per togliere un po' di pressione. Mi dici quanti punti vale secondo te Handanovic? Allora, quanti ne valse? Perché allora, Mancini, ragazzi, oggi ha detto abbiamo 39 punti, potevamo averne anche qualcuno in più, però a me piace capire da un grande portiere come sei stato tu quanti ne valsi di questi 39 Handanovic. Allora, il quanti non te lo so dire, ma è stato fondamentale in passato quando l'Inter non andava granché bene, e lo è tuttora, perché tuttora è maggiore supportato anche in fase difensiva, anche se sono arrivati un paio di volte al tiro che ha fatto veramente due grandi parate. E mi piace sottolineare questa cosa perché lo dicevo anche due anni fa. Questo è un gran portiere, ragazzi, e non è un caso che siano arrivati anche gli allungamenti del contratto. Certo, ma non è una, Francesco, non è una diminuzione avere un grande portiere, perché quanti punti vale o valeva Buffon per la Juventus? Cioè tutte le grandi squadre, la maggior parte delle grandi squadre hanno un grande portiere, e il grande portiere è quello che vale dei punti, no? Certo, ma la cosa che mi dà un po' fastidio è che se ne accorgono adesso. Di quanto sia grande Handanovic? Certo, due anni fa, non so se vi ricordate due anni fa, un anno fa che lo criticavano. Beh, ha anche fatto un po' di errori l'anno scorso, anche suoi, al di là, che era una squadra organizzata male. No, gli errori li ha fatti dopo un periodo brillantissimo, ha fatto gli errori, e la gente si ricorda degli errori. Adesso sembra che Handanovic ci sia un fenomeno perché sta attraversando un altro buon periodo. In realtà è cresciuta la squadra. Quando aveva fatto gli errori, la squadra non lo proteggeva assolutamente. Voglio dire, anche se hai un fenomeno di portiere e hai una squadra che non ti protegge, fai fatica a rimanere a galla, capito? In questo periodo, invece, Handanovic è un gran portiere, lo sta dimostrando. La squadra si è alzata di livello, ok? E io ho visto che le qualità lì davanti ce le hai. Non è che non sei arrivato al tiro, sei arrivato al tiro e come? No, ma il paradosso è che l'Inter perde nella domenica in cui forse gioca la miglior partita come fluidità del campionato. Francesco, ti devo chiedere un minuto di pazienza perché abbiamo il traffico. Poi mi hai fatto venire due curiosità a proposito di grandi portieri, perché io ieri sera ne ho visto un altro che si è caricato sulle spalle una squadra e ha 16 anni. Donnarumma. Adesso c'è il traffico, poi voglio chiederti cosa ne pensi. Adesso che diciamo ai puristi che snobbavano l'1-0. No, che era sempre meglio l'1-0 soffrendo. Tutti convocati. Tutti convocati. 800-24-00-24, dopo vi leggo cosa dicono gli amici da casa, scatenati sulla questione Mancini, arbitri, doveri. Io ve lo ripeto, due giorni fa, al momento della designazione, già qualche perplessità perché i numeri di doveri con l'Inter e i precedenti erano precedenti particolari. Però, a proposito di portieri che si caricano sulle spalle il destino di una squadra, a me sentir parlare Francesco Toldo è venuto in mente Donnarumma ieri, straordinario nei primi 20 minuti di una partita fondamentale per il Milan. Cosa ne pensi di Donnarumma, Francesco? Allora, Donnarumma sta facendo tantissima esperienza perché ha ricevuto enorme fiducia da parte dell'allenatore, e è un ragazzo che meriterà sicuramente grandi palcoscenici, già li sta avendo, sta dimostrando un gran carattere e ha avuto possibilità di lavorare con degli ottimi preparatori dei portieri, e non penso neanche che si, tra virgolette, monti la testa come si diceva una volta, perché è una persona che è abituata, è un portiere che è abituato a lavorare duro, e le qualità ce le ha sicuramente. Ma lui ha già qualità da titolare del Milan, perché ci è arrivato un po' per caso, diciamo la verità. L'unica cosa è tutelateli questi giovani ragazzi, va bene esporlo, ma devi anche sapere difenderlo nel caso di bisogno, voglio dire. Ok che ha le qualità, ok che l'avete messo in porta e che si sta che sta parando bene. Voglio vedere le prime difficoltà. Questo è verissimo, Francesco. Il dirigente o l'allenatore che lo mette in panchina e che non lo considera più è sbagliato, perché bruci un giovane. Allora, giustissimo tutto, voglio vedere anche il rush finale. Certo, questo ragazzo, proteggetelo, certo. E fatelo crescere. Francesco, allora tutti noi sappiamo qual è normalmente la parabola dei giovani giocatori. Basta guardare De Sciglio. De Sciglio è entrato in squadra, ma anche Santon è un altro esempio paradigmatico. ma è successo a molti giovani giocatori che sono entrati in squadra in età molto verde. Hanno una fase in cui sull'onda dell'entusiasmo, della poca pressione, sembrano fortissimi, poi hanno un fatale calo e a quel punto tu li devi tutelare. Certo, certo. Anche perché il ragazzo non è facile giocare in porta nel Milan, è l'opposto dell'Inter in questo caso. Sì, non è una squadra che tradizionalmente ha fatto del portiere il suo punto di forza. C'è un amico che scrive: Donnarumma è l'erede perfetto di Toldo, credo gli stia facendo un complimento. No, ma ragazzi, io ho allenato l'Under 20 e l'Under 21, qualche allenamento è passato su di me Donnarumma 2-3 anni fa. Ma chi è il giovane portiere più forte italiano? Perché c'è chi diceva Scufè, adesso abbiamo Donnarumma, c'è Perin, dicono che Meret, attuale riserva dell'Udinese, ragazzi, sia Meret come si pronuncia, ecco. Chi è il numero uno? Dietro Buffon, dietro Sirigu, dietro quelli che adesso ci sono? Beh, ragazzi, è difficile dare il nome. Io ce l'avrei il nome in testa mia, ma non è più giovane. Voglio dire, ha fatto la sua esperienza. A me Perin piace molto. Perin? Perin sì, è un portiere completo, non è più giovane. Però gli altri, falli crescere un attimino, perché è presto un attimino per fare anche altri nuovi. Però c'è una bella nidiata di portieri dai 25 ai 30 anni che si stanno comportando bene anche in squadre medie normali. Sì, diciamo, no, non siamo più fermi soltanto a Buffon, che era un po' il rischio che correvamo. All'estero costa di meno, tutto lì. Costa di meno comprarli all'estero, tutto lì. E poi bisogna anche che si confermino, perché mi viene in mente ad esempio Bardi o Leali, stanno facendo fatica. Altri due nomi che a 19-20 anni erano considerati dei predestinati. Leali ha un gran futuro, secondo me. Leali, perché ha talento e qualità, però ha beccato squadre difficili. Squadre cui devi salvarti, e quindi c'è un altro clima, un altro ambiente. Non è facile fare il portiere del Frosinone. Grazie Francesco. Ciao Francesco. Bene, ragazzi, dai. Ciao. Grazie ciao. A Francesco Toldo, gentilissimo. 800 24 00 24. Ci sono Alessandro da Pescara, Giuseppe dalla provincia di Messina, adesso li chiamiamo. C'è chi dice che Mancini si è coperto di ridicolo. C'è un amico invece che scrive via WhatsApp: oggi dovevamo perdere, arbitraggio vergognoso, chi ha visto la partita lo ha visto. C'è chi ricorda i due rigori negati mercoledì all'Empoli, perché Mancini oggi non ne parla. Insomma, c'è il tema della protesta doveri, oggi di Mancini su doveri. Ma sì, sono io, sì. Sono Luciano, come stai? Bravo, ma qui non c'è doveri, questo sta telefonando. Io volevo farti i complimenti, perché praticamente sei stato perfetto. Io ti candido ufficialmente per il premio Nobel per l'arbitraggio. No, ma direttore, non dica che non esiste, peraltro. Hai chiuso giustamente un occhio, anzi tutti e due, e non hai espulso Berardi. La manata su D'Ambrosio era un buffettino. Ma Mancini era una ha detto di no. Ma riusciamo a parlare? Il calcio non è un gioco no. per signorine. Ma e con poi, chi sta parlando? Daniela, ma cosa sta dicendo dall'altra parte doveri? Hai fatto i tuoi sporchi doveri. Sì, ed il rigorino, no. Il rigorino al 95esimo ci sta tutto. Lì invece non hai chiuso un occhio, anzi entrambi. No, sì. Bravo. Questo è il nostro Andrew Mercu. Daniele, dimmi dove ti devo spedire il regalino. Ma no, non si dice. Alessandro da Pescara. Alessandro. Dove? Alessandro, eccoci. Eccoci. Dunque, io volevo dire solo una cosa. Sì. L'Inter evidentemente oggi ha meritato di perdere, e va bene, però con una presidenza o con uno staff dirigenziale che fosse più presente e influente, leggi Juventus ad esempio, Marotta o John Elkann, non credo che avrebbero affidato a doveri l'ottava partita. Ecco. Beh, non è che doveri non deve più arbitrare lì, esatto. E poi non è che John Elkann sia tutti i giorni a Vinova a vedere gli allenamenti della Juventus. No, ma voglio dire, ma mi sembra che questo ruolo, questo ruolo è svolto perfettamente da Mancini, cioè è Mancini che si è preso sulle spalle un sacco di responsabilità che non riguardano solo il campo. Diciamolo in un altro modo: dopo 7 partite che hanno lasciato qualche dubbio, diciamo eufemisticamente, era il caso di rimandare doveri all'Inter e continuare a mandarcelo? Allora, ufficialmente le recusazioni non esistono questa più, è una lunga storia. E quindi è impossibile pensare che doveri non arbitri più l'Inter. Detto questo, io vi ho raccontato il retroscena. c'era della perplessità. Secondo me oggi Doveri, l'episodio di Berardi possiamo parlarne, perché la manata effettivamente è tra il giallo e il rosso ed è un errore sicuro che addirittura Doveri non abbia nemmeno fischiato il fallo, però ha poi fatto bene. Però poi ad esempio sul calcio di rigore non c'è niente da dire, e se vogliamo essere onesti Miranda rischia anche il cartellino rosso nell'episodio del calcio di rigore finale. Giuseppe dalla provincia di Messina, Giuseppe. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, prego. Guarda, io tralascio le polemiche di l'ironia di Mancini, perché ho sentito oggi la telecronaca Sky con il commento di Scarpini e sì, non ha fatto nessun riferimento a manate e cose varie. Io voglio parlare del calciomercato dell'Inter. Voi sì, spiegatemi cosa serve comprare 35 milioni di euro con Dombia, quando quel gioco che ha fatto oggi con Dombia lo può tranquillamente fare Guarin, che adesso è diventato l'ultimo dei panchinari. Hanno preso Jovic con tanto di pompa magna, corte di tifose e quant'altro, e oggi entra gli ultimi 5 minuti, e non solo oggi, gli ultimi 5 minuti, e addirittura prima di lui entra in campo Palacio. Cioè, secondo me Mancini anche un po' di confusione proprio tattica, perché le sue prime scelte fortemente volute le sta adesso relegando in panchina. Sì, però forse abbondanza di giocatori? Però Jovetic a inizio stagione è stato importante per questa sì, Inter. Adesso la sensazione non sta segnando, che non stia benissimo fisicamente. No, su Condobbia evidentemente l'Inter si aspettava altro. Si aspettava di aver preso un giocatore diverso, che fin qui è stato soltanto a sprazzi. Ad esempio ad Empoli insomma è stato non decisivo, ma ha fatto il suo insieme a tutti gli altri. Però alla fine se l'Inter è lì ed è seconda in classifica, buona parte del merito va anche al modo con cui Mancini ha voluto fare il mercato quest'estate, E al modo in cui sta gestendo la rosa comunque, Giovanni, e anche alle richieste che sta facendo in questo momento. Chiaro. A Toir, perché lo ricordiamo, siamo nel pieno del mercato. Chiedo qualche minuto di pazienza a Maurizio da Roma, ripartiamo con lui dopo il GR. Ci sarà anche Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, prenotatevi per intervenire. Poi avremo Demetrio Albertini per parlare invece del Milan. Adesso il GR. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Tutti convocati. Buonasera dal vostro presidente preferito, un saluto coeso e molto positivo a tutti voi autorevoli e competentissimi telespettatori di Confindustria. Quest'oggi ritorno insieme a voi con questo privilegiato filo diretto per comunicarvi in via confidenziale, molto coesa e positiva e diretta, finalmente, dopo l'amara sconfitta del Milan di ieri sera all'Olimpico di Roma. Ci siamo levati dalle palle una volta per tutte Sinisa Mihajlovic. Ma non è vero. Vi comunico a reti unificate mondovisione. Ma non è vero. Interplanetaria. No, presidente, mi lasci parlare, no, presidente, non che avete il perso. Nuovo allenatore no, del Milan. Ma non lo può dire, non lo può dire, non lo può dire. Perché non lo può dire? Perché il Milan non ha perso, ha pareggiato. Lei forse ha spento il televisore. Poi sono radioascoltatore e non telespettatore. Sì, ma ha spento il televisore. Beh, insomma, il presidente ha fatto tutto la sua carriera. Stiamo facendo un po' di confusione. Ecco, allora, gente, comunque lei ha spento forse la televisione alla fine del primo tempo. Poi il Milan ha recuperato. Ha segnato Rudiger. Sì, ma poi il Milan ha pareggiato. Poi ha segnato anche Kučka, quindi lei non si è... Com'è che ha detto? Lei non si è levato da... Io ribadisco che ci siamo finalmente levati. No, non è così. Non è così. Vediamo noi una notizia. Quindi il nuovo allenatore. No, è sempre Mihajlovic. 800 24 00 24. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Come ma niente, a parte le incursioni, qui va tutto bene. Silvio, le comunico. Voi diglielo. Buonasera Pardo. Buonasera Pardo. Avete pareggiato 1-1. Guardi Pardo, che lei mi aveva detto anche televisivamente che Rudiger aveva segnato il gol vittoria della Roma, mi sembra. Guardi, io ieri ero a letto proprio, quindi non ero io presidente, però consiglio a guardare premi. Mi scusi, ma era in letto eccezionale. Era a letto quello di Putin, quello No. Allora 800 24 00 24. Stiamo andando alla deriva. No. Allora, quanto ride Berco. Scusate. Fammi vendola un attimo, dai. Buonasera. Buonasera. Okay. Un mix, questo è il termine che lei predilige. Mix, detto col cuore. Allora, facciamo Maurizio da Roma, che siamo, ci aspetta veramente da tempo in memore, se no ci denuncia. Maurizio, buonasera. Non ci denunci, buonasera, Maurizio. Buonasera, eccoci buonasera. Qui. Non ci denunci. Sì, prego. Sì, sì. No, volevo che il vero Berlusconi ci annunciasse a rete unificata che ci liberasse come il 25 aprile di Galliani. Di Galliani. E quando io vedo, no, Galliani è la vera colpa, secondo me, di tutto quello che sta succedendo a Milan, a parte tutto quello che, vabbè, la società. Chiedo scusa, mi perdoni se intervengo, ma Galliani, Maurizio. Galliani chi? Galliani chi? Maurizio, prego. No, mi ricorda, quei piazzisti di pendole mediocri, sì, che quando hanno esaurito il giro dei parenti e degli amici non riescono a fare più un affare. Mm. Allora gli affari li fa col Genoa, con la Roma, e l'ultimo regalo che si sta facendo è il rinnovo di Montolivo, che un calciatore mi devono fare un disegno per spiegare, visto che c'è il grande Albertini, mi deve spiegare con un disegno che giocatore è. Adesso, non è carne, adesso arriva, dopo il traffico glielo perfetto, chiediamo, ma Maurizio. Perfetto. Quindi è l'ultimo regalo che ci staranno facendo, spero che si ravvedano. Quindi è inutile andare a cercare, secondo me colpe ci sono in Mihajlovic, ma i giocatori sono stati presi da Galliani, il quale non riesce più a fare mercato. Questo è un dato oggettivo, non è che lo dico io. Io quando sento Galliani e ho la tazza del caffè in mano bollente, la devo poggiare perché mi fa venire urticaria, salta in aria, perché è di una supponenza allucinante, pazzesca. Guarda, c'è un amico che ha appena scritto, su WhatsApp, ma come si fa a criticare Galliani è allucinante. Quindi Galliani, questo per Galliani dire che divide molto. Grazie Maurizio. Sì. Sarà figlio di Galliani, non lo so. Grazie Maurizio. Pierre, il clima è sempre bello frizzantello. E pensa che il Milan non ha perso. Pensa che il Milan non ha perso. Ma Galliani, secondo me, ha fatto degli errori in questi anni. Non è il male assoluto di Milan. Penso proprio assolutamente possa essere considerato il male assoluto. La storia recente del Milan, per me, gira con la famosa trattativa Tevez, che non va più via, ed era, l'abbiamo detto mille volte, un contratto e un'istruzione che aveva avuto Galliani. E Galliani, quindi, non c'entrava nulla, perché aveva costruito un castello di carte meraviglioso per portare Tevez a Milano, lasciando andare via Pato, che adesso, quindi, è ancora tra coloro che sono sospesi. E anche questo mercato, secondo me, non è un mercato da buttare via, perché insomma comunque il Milan sta trovando delle risorse. Poi qualcuno, vedi Romagnoli, sta faticando più del previsto, ma non me la sento di dare una colpa a Galliani sul fatto che abbia preso Romagnoli. Mi sembra che il Milan abbia grande discontinuità e sia una squadra, ripeto, un solito work in progress, lo ripetiamo sempre, sembra che potrebbe recuperare qualche posizione, ma che credo che farà alti e bassi da qui fino alla fine, e che però si chiama Milan, e quindi tutte le volte in cui invece di fare un alto fa un basso, diciamo che crea ovviamente agitazione e distrazione e stupore. Invece la notizia di oggi è che il Napoli è campione d'inverno. Ti faccio sentire il siparietto a Sky di De Laurentiis, quando gli hanno citato tutte le statistiche, l'abbiamo fatto anche noi prima, quindi il Napoli è praticamente campione d'Italia, no? Adesso stiamo scherzando. Sentiamo De Laurentiis. Negli ultimi 11 campionati, chi era primo al girone d'andata era primo anche alla fine. Almeno la statistica le fa parlare di scudetto? Due volte su tre credo sia successo, sì, no? Negli ultimi 11 campionati consecutivamente, due volte su tre da quando esistono i tre punti. E va bene, però sapete che la scaramanzia ci fa dire in maniera quasi impropria, quasi noiosa, noi vogliamo parlare di partita in partita, no? Se lei vede tutte le interviste, ormai sono omologhe, sono tutte fatte con la carta carbone. Anche gli stessi giocatori hanno imparato a dire le stesse cose senza mai sbilanciarsi. E a me viene sempre molto da ridere. No, la verità è che questo è un campionato apertissimo, un campionato dove ce la giochiamo in tanti, ed è proprio per questo che non è noioso ed è spettacolare. In pratica, Pier, abbiamo scoperto che De Laurentiis scrive le risposte ai giocatori del Napoli. Lungo giro di parole. No, ma ha ragione. Devo dire che c'è una grande differenza, secondo me, rispetto agli altri campionati. Ma insomma, Pier, sbilanciati. Noi l'abbiamo detto in apertura. Noi siamo quelli che l'abbiamo detto. Il 21 settembre, dal punto di vista professionale, sto pregando Dio che questa cosa succeda, perché sicuramente avrei poi delle doti di divinazione, non lo so, potrei a quel punto giocarmi gli ambi eterni all'otto, perché io il 21 settembre, dopo Napoli-Lazio, ho detto: e se fosse il Napoli, lanciandomi in una... oggi francamente è una predizione che confermo, secondo me la vera novità che non mi aspettavo e che secondo me può cambiare tutto è che è tornata la Juve, ed è tornata in una maniera talmente forte, talmente piena di sicurezza che francamente non si può non fare i conti, mentre sì. Da sempre io la considero ovviamente molto forte, con dei grandi margini di crescita, però la capisco fino in fondo, e lo ribadisco, non la capisco fino in fondo, ma non è una cosa negativa, cioè mi sembra una squadra che vince tante volte per 1-0, questo è un grande segno di forza mentale, di grande abitudine a lottare, quindi sono tutte cose positive, però poi può succedere che nella partita nella quale invece si gira un pochino storto, e oggi certamente l'è girato storto, perché oggi non meritava di perdere, arrivi un passo falso, e se vinci sempre 1-0 poi alla fine... prima o poi il passo falso lo fai, e in un campionato che è una corsa di regolarità rischi di fare un sì, rischi di fare un passo a vuoto. Pier, prima del traffico facciamo Matteo da Vicenza. Matteo, sì, buonasera, grazie. Eccoci, per buonasera. La presentazione. Allora, avevo due domande velocissime. Una, io sono romanista e quindi sto vivendo quest'anno in una maniera un po' caotica emotivamente, quindi la domanda era se c'era la possibilità di vedere Garcia esonerato questa sera. E la seconda domanda era... Non credo, Matteo. La prego. Risposta è no. Ah, proprio no. Quindi no. Me la devo mettere via fino a giugno. Almeno fino a domani mattina. Cioè, tu hai chiesto stasera. Stasera no. Vabbè. Chi sarà il prossimo allenatore della Roma secondo voi? Questo è più interessante, Pier. Depends. No, io penso depends. Che l'idea della Roma sia Conte. Però è un'idea ovviamente che deve essere verificata. Credo che ci sia... da parte di Conte una disponibilità di massima, ma è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta di qualche club di maggior livello, tipo il Chelsea, da fare un nome all'estero, a quel punto la Roma rischia di soccombere. Sì, ma qui siamo a rischio a tutto però, Pier. Cioè, io credo sia anche un errore di strategia, cioè tu non puoi buttare via una stagione che evidentemente stai soffrendo con un allenatore che non vuoi perché hai la speranza. Esatto, più che altro la domanda è come vivi il girone di ritorno. Ma, tra l'altro lo stesso discorso lo stanno facendo al Milan, lo stanno facendo in altre piazze. Ribadisco che insomma Garcia ha fatto un lavoro importante nei primi due anni, perché la Roma non è abituata tutti gli anni a arrivare secondo in classifica e andare in Champions senza preliminare, però mi sembra, come dico da tempo ormai, che mi sembra che abbia perso carisma agli occhi della città, che non è un dettaglio a Roma, e agli occhi della stessa squadra. Ieri ho visto la squadra ancora allo sbando, la Roma ha fatto una vittoria nelle ultime 10 partite, una, contro il Genoa, tra campionato e coppe, una vittoria in 10 partite. Ditemi voi se questa squadra può... È una squadra che, come ha detto anche ieri Garcia, ha spento la luce, cosa che a metà gennaio non ti puoi permettere. 800240024, c'è il traffico, c'è chi giustamente ricorda, secondo me, che fino a due mesi fa De Laurentiis era poco amato a Napoli, adesso è l'eroe. E io credo, e lo ripeto, e lo dicevo però anche inizio stagione, i napoletani dovrebbero fare una statua nella piazza centrale di Napoli a De Laurentiis per aver tenuto questa squadra qui malgrado due anni senza Champions League. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Garcia lo conosco poco, so che è una persona seria, è un bravo allenatore, sembra domani una sfida tra i due pistoleri, no? Fra me e lui, e ci giochiamo molto. Parliamo della partita e lasciamo stare l'allenatore e gli allenatori, perché leggo che evidentemente sembra una partita da ultima spiaggia, da pistoleri eccetera eccetera. Stiamo calmi, guardiamo, c'è una partita di calcio. Immagine tra l'altro evocata proprio dal suo allenatore. Sì, sì. I veri uomini si rialzano sempre dopo essere caduti, e noi questa partita abbiamo... finito in piedi a testa alta, dopo i primi 10 minuti di brividi, gol al freddo, e là dovevamo ringraziare Donnarumma, penso che dopo abbiamo fatto la partita. Oggi abbiamo meritato sicuramente di più di quello che abbiamo ottenuto, però è importante non perdere fiducia. Questa pressione su questa partita in cui si parlava in una notte da dentro e fuori per la panchina da una parte e dall'altra. No, beh, io sono abituato, a me ormai si parla da 3 mesi, perciò è ormai diventata un'abitudine. Bisogna convivere con quello. Allora, a parte gli aforismi di Mihajlovic, che secondo me gli portano anche un po' sfortuna, però questo è un parere personale. 800 24 00 24, insomma, ieri Mihajlovic ha preso un brodino, poi mercoledì la giostra riparte, c'è il Carpi in Coppa Italia, che è già l'ultima spiaggia, ma diventerà la penultima, perché quella dopo è la partita con la Fiorentina, e poi si va avanti così. Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao a tutti. C'è la sensazione che si vada avanti un po' così, eh? Sì, però non si può vivere sempre su un filo. Questo vale per Mihajlovic, vale anche per Garcia? No, non si può, sinceramente. Si è fatto un programma all'inizio, credo che sia stata fatta da tutte e due le società, ed è difficile pensare di essere a questo punto. Se, visto che avete fatto una premessa così dai pistoleri, hanno sparato a salve tutte e due. Il Milan ieri ha giocato un grandissimo secondo tempo, secondo me, ha giocato molto bene, si è rialzato, come ha detto Sinisa. Adesso pensare che avranno 3 giorni per preparare la partita o 6 per preparare la prossima di campionato ancora con col fucile puntato è sempre difficile. Sì, c'è un amico che scrive via WhatsApp 349 238 6666: con la squadra che ha il Milan ieri sera ha fatto un miracolo. Io invece ribalto il concetto. A me la cosa che ha colpito di più è stato l'approccio disastroso del Milan ieri sera, e contro una squadra che non fosse la Roma, nelle condizioni psicologiche in cui è la Roma oggi, ieri il Milan avrebbe perso. Demetrio. Ma non lo so, nel senso che questo momento è una conseguenza di altri momenti, perché bisogna anche dire questo, no? Perché alla fine, quando sei una grande squadra, io l'ho detto più volte anche in questa radio, in questa situazione, che da una parte il Milan deve ricostruire o sta ricostruendo, ha buttato le basi per il futuro, però alla fine, avendo speso tanto e essendo anche nel Milan, hai bisogno di risultati. Questa è la cosa più difficile quando ti siedi su una panchina di una grande squadra, di un grande club. È sempre difficile oggi pensare a quello che sarà domani o quello che è stato. Secondo me il Milan non ha ancora espresso tutto il proprio valore, questo è quello che penso. Credo che possa fare molto di più e che i giocatori possano prendersi anche delle responsabilità in più di quelle che stanno prendendo adesso. Sì, ma non ad esempio in tanti, oggi le pagelle lo bocciavano, in tanti hanno puntato il dito su Romagnoli, che ieri evidentemente è stato protagonista di una serata un po' così. Prima parlavamo con Francesco Toldo della necessità di proteggere Donnarumma quando arriveranno i primi errori, cosa che in una situazione come questa del Milan è difficile. Io dico che ultimamente al Milan non c'è equilibrio di giudizio, no? Sì, quando si vince una partita sembra che si avvicini, si sta toccando la Champions League con mano, o quando le cose non vanno bene alla fine sembra che l'allenatore o che i giocatori non siano all'altezza. E quindi credo che prima di tutto ci voglia un giudizio, e quello che dice anche Francesco Toldo per Donnarumma vale anche per altri giocatori. Che si dà tanta responsabilità a un singolo giocatore quando alla fine si deve inserire in un contesto. Io dico sempre che indossare la maglia del Milan è pesante, non è così semplice, è pesante. Lo no, dice, ma è capitato anche a te, no? Demetrio, sì, diciamo, è capitato anche a te, sono capitati anche a te periodi grami, e tu sai quale sia il peso di quella maglia, soprattutto quando giochi a San Siro. Guarda, come quando giochi a San Siro, e io faccio un discorso anche un po' più ampio, che la stagione positiva o negativa, o per vincere gli scudetti o meno, conta molto la gestione dei momenti negativi, non di quelli positivi, perché quando tu le cose vanno bene per tutti, e quindi sembra che tutto sia facile. La gestione dei momenti difficili, porto l'esempio della Juventus o di altre squadre che in questi momenti, anche il Napoli all'inizio non è andato benissimo, ha gestito molto bene quei momenti e oggi si ritrova magari a pensare o con l'idea o con la possibilità di poter vincere lo scudetto. Così lo stesso discorso per la Roma, un momento di flessione, l'ambiente deve essere più positivo, sì, per poterne uscire. Cosa difficile a Roma, eh? Aspetta che coinvolgo anche Pierluigi Pardo, che intanto è sulla strada di Marassi. Pier, sono proprio a Marassi. Si sente il vento, eh? si sente il vento, si sente il vento di Maras. Sono d'accordo con Demetrio, ovviamente ci vuole più equilibrio, questo non ci sono dubbi. È anche vero che questa squadra porta, insomma, l'andamento di questa squadra non è un andamento banale, è un andamento, nel senso che questa squadra qualche volta ha dato i segnali di essere di fronte a un Big Bang vero, positivo. Penso alla vittoria contro la Lazio, per esempio, fuori casa, insomma, qualche bella prestazione è stata capace di alimentare un certo tipo di entusiasmo. E poi però ci sono delle cadute assolutamente rovinose. Ieri ho visto nel secondo tempo una squadra vera, ho visto una squadra ancora, come si dice, vicina all'allenatore, vogliosa di lottare con l'allenatore. Ho visto un Boateng più che discreto, che francamente non mi aspettavo. Insomma, qualche segnale c'è, però poi il Milan troppe volte secondo me a San Siro, in partite sulla carta molto semplici, molto banali, nelle quali deve fare la partita, ha seccato. Quindi forse anche questa è una tendenza, no? Una certa difficoltà a giocare le partite sulla carta più semplice. Sì, questa però è una difficoltà tattica, e io credo che questo ad esempio è quello che si può imputare a Mihajlovic. Poi, per carità, il Milan ha una situazione societaria, ha tutto quello che conosciamo. Ci sono tanti che ci scrivono: i guai sono iniziati con l'ingresso di Barbara Berlusconi. Io andrei dietro di qualche mese. I guai sono iniziati quando legittimamente Berlusconi e Fininvest hanno scelto di investire meno, di disinvestire nel Milan. E lì forse è la partenza di tutto. Però se il problema è quello, Pier, Demetrio, Carlo, cioè che non c'è questa continuità, qualcosa richiama anche a Mihajlovic. Ma non c'è una strategia precisa al vertice della società, cioè non ci sono disegni chiari, c'è questa ipotesi di cessione che non si è mai verificata, c'è una grandissima confusione di ruoli e anche di programmi e di progetti. E questo è un discorso abbastanza comune, assimilabile a quello della Roma. La Roma ha una proprietà lontana, un proprietario lontano, non ha un uomo forte qui in Italia, perché questo uomo forte non è Sabatini, che è bravissimo sul mercato, ma non può essere il parafulmine di ogni situazione. E dunque io continuo a pensare che queste difficoltà societarie, questa confusione societaria, poi lentamente scenda fin sul campo. Demetrio, non sarebbe male una figura, No, io dico che sono d'accordo, la confusione porta a confusione, tante volte quando non c'è una strategia, una situazione chiara, diventa difficile poi, come ho detto, gestire nei momenti difficili. Non voglio entrare nello specifico, però credo che se penso, come ho detto, ho citato due squadre, due società, due club come il Napoli e come la Juventus, dove hanno iniziato non sicuramente bene, però si vedeva o comunque si percepiva un disegno di una società forte, di tutte e due, di una persona che prendeva la parola, prendeva le responsabilità di un momento, magari in un momento negativo, però la strada doveva essere quella fino alla fine. Poi alla fine del campionato si può tirare le somme. È stato così per il Napoli, è stato così per la Juventus. Hanno ripreso, diciamo, la giusta rotta. Io dico che tutto è contagioso nel calcio, e il contagio che ti può portare la società, che la società è tanto importante nei momenti positivi come nei momenti negativi. E quindi ci vuole veramente quel riprendere quella rotta, e che sia una rotta, che una si decisione, è persa. Che sia una decisione, qualsiasi decisione, esatto. Ma che siano tutti sulla stessa direzione. Esatto, sì, esatto. Quella esatto. È la sensazione che non c'è stata in questi ultimi mesi, guardando un po' da fuori. Ma questo non lo so, io dico da fuori, guardando da esterno, certo. Diventa sempre difficile. Beh, la sensazione comune, ce l'abbiamo però, tutti dico, questa sensazione. Roma in questa situazione, tutti i conti, io non lo vivo un po' meno a Roma in questo momento, no? E si legge, si segue che essendoci anche la proprietà distante diventa difficile, che Sabatini ha preso le difese in alcuni momenti dell'allenatore, della squadra. Io mi ricordo quando disse se va a fondo Garcia andiamo a fondo tutti, a fondo, no? Tutti, in un sì. momento, ma ha dato una linea, poi dopo la porti avanti. Quindi questo deve essere poi dopo si deciderà se è quella giusta o quella sbagliata, però alla fine è un campionato, hai fatto delle scelte e le scelte le devi portare avanti fino in fondo, e non sto parlando solo dell'allenatore, proprio pensando all'obiettivo. Guarda, a proposito dell'allenatore, non solo, c'è un amico che ha scritto un WhatsApp, ma io dico, tifoso del Milan, Donadoni e Albertini quanto servirebbero al Milan di oggi? Non lo so, la risposta. Questo è un vecchio tema, perché Milan... Pier. Che succede? Non lo so, stai schiacciando dei tasti a casaccio. Giuro di no. Dai. C'è lo Spirito Santo, no? Come no? Secondo me è Cassano, stai schiacciando dei bottoni a caso. Sembra una gag, anche se Luca mi dice sempre parla vicino al microfono. Vabbè, comunque, credo che ci sia un po' di questo momento una lacuna da questo punto di vista, di conoscenza tecnica. Quest'anno ha speso tanto, secondo me non ha neanche speso male, nel senso che Bacca è giocatore vero, sì, e Bertolacci e Romagnoli sono giocatori utili del futuro, insomma ci sono dei segnali secondo me di crescita, manca un po' di società, però non deve neanche diventare un alibi, perché poi alla fine insomma la vera o presunta rivalità fra Barbara e Galliani, voglio dire, è una cosa che riguarda insomma l'organizzazione e il futuro del club. A me sembra che il Milan abbia una buona organizzazione complessiva, semmai deve trovare delle figure che possano darle dal punto di vista proprio delle scelte tecniche qualcosa in più, perché negli ultimi anni ci si è affidati secondo me a dei colpi troppo estemporanei, compilando sulla grande forza del marchio Milan, che ha convinto dei grandi giocatori, quindi dei quali anche un po' bolliti, anche un po' in avanti con l'età, ad arrivare. Da quest'anno si è cominciata una strada secondo me completamente diversa e non male, quindi secondo me alla fine i risultati arriveranno. Sì, anche se non è semplice rassegnarsi a star fuori dalla Champions per il terzo anno consecutivo per mille motivi. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Grazie a voi, ciao. Grazie Demetrio, ciao, Albertini, ciao. 800 24 00 24, c'è chi se la prende con gli attaccanti del Milan che col Bologna e Roma hanno sbagliato gol incredibili, sì, per carità, c'è anche quello, poi c'è anche magari la componente di un momento in cui le cose non ti vanno. Noi adesso ci fermiamo, saluto Carlo Genta. Vado a fare una cosa, sì. Torno subito a Marassi da Pierluigi Pardo, perché convocato. Adesso parliamo di Juventus Samp, o meglio di Samp Juve. Tutti convocati. Tutti convocati. La vittoria è archiviata, la mia mente deve essere archiviata nella mente dei giocatori, e non c'è più spazio per gioire, soprattutto perché affrontiamo la Juve, soprattutto perché affrontiamo una partita di alto livello di Serie A, quindi ci vuole rabbia, ci vuole concentrazione, ci vuole umiltà, ci vuole costanza, è una partita difficilissima contro una corazzata, quindi ci vogliono tutte queste componenti nell'arco dei 95 minuti. È il momento più importante per noi della stagione dopo la rincorsa, perché queste due partite, queste due trasferte, non dico che decideranno, ma vorranno dire molto, perché quando arriveremo a giocare la partita di Udine alla prossima, noi le ultime 7 partite abbiamo giocato 5 trasferte e 2 partite in casa, e quindi chiudere questo periodo con 2 ottimi risultati non sarebbe male. Pensate che la classifica il 28 ottobre, dopo Sassuolo-Juventus, vedeva la Roma in testa con 23 punti, poi Napoli-Fiorentina-Inter 21, la Juventus era dodicesima a quota 12 punti, ma è stata anche quattordicesima in questo sfortunato inizio di campionato. Oggi, se vincerà Marassi, conquistando il 9° successo consecutivo, potrebbe girare alla fine del girone d'andata secondo in classifica a pari merito con l'Inter, a 2 punti dal Napoli capolista. Vi do l'aggiornamento del nostro sondaggio su Twitter, vi chiedevamo se il Napoli campione d'inverno è la favorita naturale per lo scudetto. No, secondo voi vince la Juventus 52%, Napoli 36%, Inter 11% e poi quello che resta poco per la Fiorentina. C'è Pierluigi Pardo, saluto Guido Vaciago, ciao Guido. Ciao. Mi aiutate a immaginare come ha vissuto queste ultime 2 ore Allegri? Cioè con la notizia della sconfitta dell'Inter, con il Napoli che ha stravinto a Frosinone? Tranquillo, perché secondo me lui aveva previsto tutto. Questo è l'uomo che 2 mesi fa aveva detto che la Juve a Natale avrebbe avuto 4 punti dal primo posto, e più o meno si è rivelato tale. Aveva previsto che lo scudetto in tempi non sospetti si vinceva con 82 punti, e se adesso tu fai 2 calcoli con la classifica attuale, più o meno, se si raddoppia, siamo a 82. siamo 82. Poi se vuoi scommettiamo, io continuo a pensare, che ne serviranno 84-85, perché poi le statistiche di lungo corso hanno un significato. Si corre di più nel girone di ritorno, si corre di più. No, io credo che sia tranquillo Allegri, perché adesso non so se aveva previsto la sconfitta dell'Inter col Sassuolo, però lui probabilmente la sua tranquillità di 2-3 mesi fa derivava dal fatto di essere consapevole che si era di fronte a un campionato molto strano, a un campionato in cui non c'è nessuna squadra con la solidità per fare per impostare una fuga vera, e quindi lui tutto sommato ci può stare in questo campionato perdere col Sassuolo in casa, anzi a maggior ragione visto che lui ci aveva perso a Sassuolo e sapeva che la squadra di Francesco poteva fare uno scherzetto. Sì, non è sesta per caso. Pier, ce lo vedi tranquillo Allegri in queste ore? Io no, sinceramente, anche se ha ragione Guido Vaciago, lui aveva previsto tutto e sa anche chi arriverà secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dietro la Juventus a fine campionato, Pier? No, io penso che la Juve sia favorita assieme al Napoli, siamo le due squadre più forti. Sì, non è che possiamo rimangiarci in due ore il nostro pronostico, No, io la mia storia dei prossimi, penso che interessa a qualcuno, è che io mi sono lasciato sul Napoli. Sì, sì, il nostro favorito è il Napoli, noi l'abbiamo detto all'inizio. Ma adesso io non lo so se mi fa, perché non è un dettaglio quello che ha fatto la Juve nelle ultime partite. La Juve è la squadra che ha sicuramente più abitudine, più forza dal punto di vista soprattutto di capacità di stare al vertice, perché l'ha vissuto in tutti questi anni. Napoli ha comunque dei grandi giocatori, pieni di personalità, gente come Reina, gente come Higuain, gente come Albiol, gente che ha vinto, quindi non stiamo parlando di persone che sono digiune di questo genere di situazioni. Per me sono le due squadre più forti. Poi c'è l'Inter che ha degli enormi margini ancora, perché se alla fine tu pensi che l'Inter è in questa situazione di classifica, ha avuto Jovetic all'inizio, però non ce l'ha avuto più, il Diaic lo si è visto da metà stagione in poi, c'è tutta una serie di giocatori che potevano dare di più. Insomma, se l'Inter trova una quadra e cresce, diventa una squadra ovviamente molto molto probabile anche lei. Però io vedo Napoli-Juve fino avanti, sì, per motivi diversi. Poi la qualità del gioco del Napoli, che ci aggiungo anche della Fiorentina nel girone d'andata, per me è stata superiore. Il mio premio della critica va a Napoli. Guido, questa sera vediamo Hernanes di nuovo in un 3-5-2 o nel frattempo sono cambiate le cose? Tra l'altro scrive un amico, Allegri deve dire grazie al 3-5-2 di Conte a proposito di moduli, perché certo, senza sarebbe disoccupato. Ma infatti quando Allegri vince lo sappiamo, il merito di Conte, quando perde perché è colpa di Allegri, sappiamo questa cosa qui, no? E lo sa anche lui, certo, deve dire grazie a Conte, è ovvio. Con che modulo gioca stasera? Deve dire grazie, anche a deve dire grazie a Lippi. No, deve dire Lippi. Grazie a Barzagli, Buffon, Chiellini e Bonucci, che a un certo punto lo hanno convinto che in qualche modo difendere a tre poteva essere una soluzione migliore. Poi tra il 3-5-2 di Conte e il 3-5-2 di Allegri passa davvero un abisso, perché poi quelli sono numeri e l'interpretazione è completamente diversa, perché quella di Conte era un'interpretazione, come sappiamo, molto rigida, molto a spartito, quella di Allegri è un'interpretazione più libera, è un'interpretazione in cui i giocatori hanno, soprattutto quelli di fantasia come Dybala, hanno decisamente più libertà. Io non vedo l'esplosione di Dybala nel 3-5-2 di Conte, magari sarebbe esploso lo stesso, ma comunque magari però in un'altra posizione, non con questa grande prepotenza, perché sarebbe stato inquadrato, forse avrebbe impiegato più tempo a capire che cosa Conte voleva da lui, ma questi sono discorsi oziosi. Però Guido, se Dybala ha fatto queste cose, ma ha detto il merito è di Del Neri, cioè non è che c'entra Allegri, no? Sicuramente sì, è di Del Neri, che comunque insomma, perché comunque ha creato anni fa le basi perché Dybala potesse ambientarsi bene, no? Ma infatti ma lui più o meno va sui binari di Krasic. No, secondo me il merito di Allegri è proprio quello di essere flessibile, di essere con i nervi saldi e le idee flessibili, perché è stato con i nervi saldi in un momento in cui probabilmente altri l'avrebbero persi, perché la Juve al 12°, 13° posto, cos'era, era una situazione pesante, era una situazione molto pesante, e lì lui ha mantenuto i nervi saldi anche grazie alla società, per carità, però lui ha mantenuto i nervi saldi e li ha fatti mantenere alla società e probabilmente anche alla squadra. E poi si è messo lì si è consultato con la squadra, ha capito, ha cambiato alcune cose, neanche troppe, e questa flessibilità è segno di grande intelligenza. Sì. Questo è un merito incredibile. Ci sono allenatori che si suicidano in nome Per esempio l'abbiamo fatto prima, Benitez, che per 2 anni gli è stato chiesto di cambiare leggermente il baricentro del Napoli, e insomma oggi Sarri sta facendo quello che sta facendo. Non mi hai risposto se gioca Hernanes. Sì, scusami, gioca Hernanes, gioca anche Rugani. In regia ci sarà Hernanes, che è un po' un'incognita, perché appunto la battuta di ieri era che Hernanes viene schierato proprio in un momento in cui si parla di Moviola in campo, e quindi Allegri vuole provare ad applicarlo immediatamente. Sì, si porta avanti. Gioca anche Morata, 3 gol in questo campionato. Tutti i bordocampisti riuniti di Sky e Mediaset, è un momento di grande pack televisiva. Gioca Rugani, confermato? Sì, dico Hernanes, sì. Quindi ha ragione Vasciago, e Morata davanti, sì. Lichtsteiner e Alexandro, esterni. Lichtsteiner e Alexandro, così abbiamo dato in anticipo la formazione. E poi gli altri, insomma, li conosciamo. Kedira gioca, sì, non c'è Marchisio, sì. E questo è un test, insomma. Marchisio è squalificato, sì. Quanti punti al Napoli? Bravo, ha vinto alciato, tipo un quinto. Quindi tutto confermato. Tutto confermato? Lichtsteiner e Alexandro, sai che c'è sempre un po' di ballottaggio quando gioca la Juve dal punto di vista degli esterni, no? Quindi giocano Lichtsteiner e Alexandro insieme. Sì, che è una... E quindi la Juve è bella offensiva, insomma, Allegri sente il sangue degli altri. È una delle due coppie capo, perché lui spesso fa Lichtsteiner e Alexandro oppure fa Evra Quadrado, sì, perché vuole averne uno più offensivo e l'altro più difensivo. Quindi Luciano. Pronto, Mazzoleni, ci sei? Ma non c'è Mazzoleni. Ciao, pronto, Mazzoleni, pronto, come stai? Pronto, Mazzoleni, pronto. Come pronto. Stai? Hai visto che bella partita che ha fatto Doveri? Ma non anche è vero. Anche tu devi farmi una bella partita. Lo sai che Hernanes cade ogni tanto? No, magari cade in area. Fatemi sentire, a proposito, oggi, insomma, di mercato, perché poi chiudiamo con Guido Vasciago, e poi ci sono Antonio da Torino e Antonio d'Arezzo. 800 24 00 24, la battuta invece di Allegri sul mercato della Juve. Per migliorare questa rosa ci vuole un grande giocatore. I grandi giocatori è difficile trovarli a gennaio, quindi se ci sarà la possibilità di prendere un grande giocatore, la società prenderà un grande giocatore. Se bisogna prendere un giocatore da portare qui a Vinovo e non migliorare la qualità tecnica della rosa, non ha assolutamente senso. Allora, io faccio il maligno, traduco le parole di Allegri. Se c'è da prendere Hernanes, che non è un fenomeno, lo sapevamo già, fate a meno a gennaio. Oggi Tutto Sport ha fatto il titolo, ascoltatelo, fa anche l'editoriale, insomma, la Juve deve ascoltare ed accontentare Allegri. Rifaccio il maligno, tutta l'estate non l'ha fatto, ad esempio sulla questione del trequartista. Guido. Sì, ma non è maligno, stai facendo cronaca. Sì. Stai facendo cronaca. Allegri ha fatto 3-4 interviste durante l'estate in cui ha parlato esplicitamente di Oscar, Isco, di sì. Altri giocatori, non mi ricordo qual era il terzo, ma comunque trequartisti, e poi è arrivato Hernanes. E prima di Hernanes era arrivato Cuadrado, che più di Hernanes, più dell'acquisto di Hernanes, in qualche modo contraddiceva le volontà di Allegri, perché in qualche modo costringeva a quello che poi è diventato il sistema di gioco attuale, cioè costringeva Allegri a riprendere in considerazione il 3-5-2. Hernanes è stato abbastanza un fallimento. Io poi non voglio accanirmi sul povero Hernanes, che però non è più il giocatore che era una volta, e soprattutto non sembra essersi integrato in pieno in questa squadra. Stasera ha un'occasione buona, chissà se ha messo anche, diciamo, da parte qualche problemina fisico, e gioca davanti alla difesa, che secondo me non è neanche la sua posizione ideale, perché forse lui nasce come trequartista, un trequartista atipico, ma nasce come trequartista, e quindi Allegri dice: no, ripetiamo la storia dell'estate, anche perché io bene o male una quadra l'ho trovata. Se mi prendete Gundogan, e cito Gundogan a proposito perché è il sogno proibito, visto che il Borussia non lo venderà, se mi prendete Gundogan, va bene, un giocatore equipollente, va bene, perché altrimenti, allora io lo inserisco, altrimenti lasciatemi questi, che così almeno una quadra l'abbiamo trovata, e in qualche modo cerchiamo di arrivare fino in fondo. Sono corti a centrocampo, sì, oggi devono mettere Hernanes. Vediamo oggi perché, che non c'è Marchisio, al di là delle statistiche. Perché loro hanno tre grandi centrocampisti, perché Khedira, Marchisio e Pogba fanno un grande centrocampo. Khedira per me è un giocatore, a me piace molto, però è fragile. Però fin qui ha giocato una partita su tre di media. Se la Juve riesce a portarlo a due su tre, già, sì, già è un risultato. Però Guido... siamo già in un momento in cui Khedira dovrà essere sostituito nel girone di ritorno, e quindi in questo momento, se hai Hernanes o Sturaro, è un po' peggio che avere Gundogan. Certo, Guido, ti saluto, grazie, buona partita. Grazie, ciao. Grazie a Guido Vaciago. Pier, stai lì, ci sono i due, sì. Antonio, e torniamo subito dopo. Stai lì, Pier, stai lì, non muoverti. Tutti convocati. Tutti convocati. Antonio da Torino. Antonio. Ciao ragazzi. Eccoci. Allora, voi avete parlato della Juve tutto il tempo, ma io ora vi voglio fare una domanda, sì, sui cugini, cioè, poveri. L'ultimo quarto d'ora, Antonio, l'ultimo quarto d'ora. Prego, prego. È vero, è vero. Niente, volevo chiedervi qualche cosa su Ventura, che insomma mi sembra che abbia fatto un po' il suo tempo come allenatore. Oggi contro l'Empoli, contro Giampaolo, un allenatore emergente, brillante, mi sembra proprio che le due squadre abbiano fatto vedere insomma due livelli di gioco completamente diversi. Non so, cosa ne pensate? Penso che oramai il Toro giochi sempre nello stesso modo e sia diventato un po' prevedibile. Le assenze non mi sembrano una giustificazione. Pier, grazie mille. Sì, grazie, Antonio. È vero, sicuramente siamo in una crisi di crescita della squadra. Io penso che i problemi offensivi siano tanti. Cioè, penso che se c'è il Torino ha un problema che la butta troppo poco in porta. Ha degli attaccanti che segnano poco. Oggi è stata provata, tra l'altro, una drammatica stretta rapporto tra Quagliarella e i tifosi, perché insomma i tifosi, almeno una parte della tifoseria della curva, l'ha completamente scaricato dopo le polemiche di questa settimana. Sì, diciamo che si è scaricato oggi un po' da solo, Pier, adesso con tutta la grande comprensione che possiamo avere per la vicenda, però. No, io non sono d'accordo, nel senso che sarei d'accordo se fossimo in un mondo ideale dove tutti esultano giustamente come dei pazzi, sempre e comunque. Sì, ma siccome Pier, non è detto che i tifosi debbano sempre subire tutto e stare zitti, credo che al centesimo giocatore che non esulta, questo addirittura chiede scusa, o comunque insomma poi dopo ha cercato di spiegare qual era il senso di quella sua preghiera sotto la curva dei tifosi del Napoli, se i tifosi del Toro, mi auguro comunque in maniera civile, hanno spiegato a Quagliarella che la pensavano diversamente, insomma qualche ragione possono averla. Ma sicuramente anche il dispiacere, però se guardo la storia di Quagliarella in Granata, probabilmente la conosco meno bene, sicuramente la conosco meno bene di altri, però mi sembra una storia di grande impegno e anche di ottimi risultati, quindi insomma, francamente arrivare a una rottura di questo tipo per una cosa di questo genere mi sembra eccessivo. Detto questo, è ovvio, sai come la penso, per me Quagliarella e tutti dovrebbero risultare sempre e comunque indipendentemente dalla rivale, se è una ex squadra, nel caso di Quagliarella, di Borriello, di quelli come loro che hanno girato così tante squadre, è chiaro che il problema si acuisce perché hanno quasi sempre fatto, Quagliarella ha fatto 23 gol da ex nella sua carriera, quindi insomma il problema gli si pone spesso, però sì, che fa gol alla fine, poi il problema di risultanza mi sembra quello meno rilevante. A me sembra che Quagliarella in questi anni abbia fatto veramente il suo dovere per il Torino. Questa stagione non è una buona stagione, era cominciata molto bene, poi si è inabissato, dal 20 settembre non segnava e sarà dal gol proprio contro il Napoli, e mi sembra una rottura eccessiva. Sul Torino complessivamente, appunto, crisi di crescita, però il problema è localizzato lì davanti. Però sul Torino possiamo dire che sono stati fatti investimenti importanti di giovani. Se c'è una stagione anche un po' così, secondo me i tifosi del Torino farebbero bene a guardare il quadro complessivo, a Torino ci sono giocatori importanti, si può anche magari aspettare qualche mese che vengano assemblati per bene. O Ventura, che ha rinnovato due mesi fa perché era il condottiero, improvvisamente si è, non so, rincoglionito, non lo so. No, ma il Torino sta facendo pienamente il suo, insomma non credo che ci siano problemi particolari. Credo fra l'altro che la situazione, non me ne voglia, dei tifosi di Carpi, Frosinone e Verona di quest'anno sia particolarmente segnata per quello che riguarda il discorso salvezza, quindi anche da questo punto di vista non dovrebbero, i tifosi del Torino si possono toccare ferro, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Certo, c'è un'involuzione, è inutile nasconderlo, c'è un'involuzione enorme rispetto a un anno fa e c'è un'involuzione enorme anche rispetto alla prima parte della stagione, col Torino che ha iniziato molto bene. La prospettiva secondo me è buona, perché c'è gente come Benassi, c'è gente come Baselli, come Zappacosta, cioè, questa è una squadra che sta crescendo, che sta aumentando secondo me la sua dimensione, e ha fatto un mercato di prospettiva. Ci sono tante cose che si stanno facendo anche dal punto di vista complessivo di coinvolgimento dei tifosi, il rifacimento, sì, del Cittadella. C'è un progetto, c'è l'idea che ci sia dietro un progetto. È un momento, appunto, ad avanzare la nuttata, se preferite, passa attraverso i gol che continuano a non arrivare. Oggi Martinez, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Ha avuto le occasioni, ha avuto un incredibile che si era costruito benissimo, mi è sembrato un giocatore particolarmente pimpante, però sotto porta è bloccato, era tanto tempo che non giocava e probabilmente questo gli ha tirato un brutto scherzo. Penso che sia una crisi recuperabile. Ciao Pier, buona partita. Ciao. A domani, andiamo in Spagna. Siempre cuando se gana un partido, el entrenador puede estar solo contento. Y yo estoy contento por el primer partido que hicimos, con los 3-4 días que hemos tenido de entrenamiento. Lo que más me ha gustado esta noche, yo creo que es la actitud, sobre todo. Yo creo que ganando 5-0, no es fácil meter 5-0 a un equipo como La Coruña. Yo creo que me quedo con la actitud de todo, de lo que jugaron y de lo que no jugaron, y lo más importante eso para mí. Andiamo in Spagna per la vittoria, la prima vittoria di Zidane del Real Madrid. Questo era il titolo ieri di Marca. Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Buon pomeriggio. Hai capito? L'attitudine. È arrivato Zidane ed è cambiato tutto. È chiaro che la cosa che più gli è piaciuta è l'attitudine. Probabilmente la cosa che meno piaceva al povero Benitez. Questo è così, il calcio è così, non è che i giocatori remino contro, no? Io non arrivo a pensare questo, o giochino contro l'allenatore, semplicemente probabilmente non sono contenti, e quando uno non è contento si presenta sul posto del lavoro con un'attitudine negativa. E questo era quello che succedeva al Madrid. Succede adesso anche nelle redazioni. Siamo sotto una grande bolla di euforia galattica. Intanto non ci sono più i cori Florentino di Mission. No. Non ci sono neanche i fischi per Benitez e i fischi per la squadra e via dicendo. Ieri sera tutto entusiasmo, un 5-0, io ho pronosticato un 6-0, quindi sono rimasto corto di un gol solo perché Ronaldo ne ha sbagliato qualcuno, se no ci avrei azzeccato. E adesso ci sono altre 5 partite facili, cioè questo cambio di allenatore non è per nulla casuale, è stato fatto un attimo prima di 6 partite del Real Madrid tutte abbordabili, cui 4 al Bernabeu. Sì, per essere maligni, quelle che vincono anche da soli, Ronaldo, Benzema, Bale. Ma, di solito sì, salvo cose clamorose, perché questa squadra faceva tanti gol anche con Benitez, no? Recentemente ha fatti, no? Una caterva al Raio e via dicendo. E la differenza rispetto a ieri è che ieri c'era una bella atmosfera allo stadio, tutti contenti, tutti nella stessa direzione. C'era anche Isco in campo, e James Rodriguez in panchina. Vabbè, quello perché, ti dico, è una questione di tempo. James, ultimamente, come ho scritto stamattina sulla Gazzetta, non si cura più di tanto. Diciamo, si è un po' trascurato fisicamente e quindi non era in perfette condizioni. Quando lo sarà, il titolare sarà James e non Isco. E siamo alle soglie, voglio dire, torniamo lì, 6 posti davanti, no? Io scrivo e noi lo diciamo da tempo, sono quelli, erano gli stessi 6 con Ancelotti, gli stessi 6 con Benitez ha provato a cambiare le carte, visto che l'avevano chiamato per migliorare la situazione, ha provato a inserire Casemiro, non gli è piaciuto né a Florentino e agli altri, e quindi è tornato su quei 6, e adesso vedremo se la chiave, se Zidane convince soprattutto i 3 davanti a dare una mano. Questa è una bella squadra, quindi nessuno la discute. Se i 3 davanti fanno i borghesi e non aiutano, questa è una squadra che diventa molto vulnerabile. Gli stessi problemi di Benitez, insomma, che hanno avuto un po' tutti gli allenatori del Real Madrid che si sono trovati a misurarsi con questa cosa. Tanto per la statistica, col 5-0 al Deportivo La Coruña, Zidane è il miglior tecnico al debutto sulla panchina del Real Madrid dal 1959, il quarto migliore di sempre. Poi vediamo fra 2 mesi cosa resterà di questi numeri. Grazie Filippo. A voi, ciao. Domani sì, intanto Messi va a ritirare il pallone d'oro. La FIFA ha già pubblicato la classifica, quindi si sa già tutto. Però facciamo finta di vivere nell'attesa. Chi sarà il prossimo pallone d'oro? Domani si scopre a Zurigo. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Paolo Corleoni in regia, Andro Mercù con le sue mille voci. Domani, dopo il GR delle 14, vi salutiamo, siamo di nuovo qui. E benediciamo, sì, amatissimi figli. Dopo cospicue analisi comparative spirituali, vi possiamo regalare un vaticinio conclusivo. Sì, però che sia vero, che sia il vero. Nuovo allenatore del Real Madrid sarà Zidane.